Sono nata per via solitaria e capemonte, terra assettata che va se cace simma da un fronte. Che sentimento ci pensa più carmeta venamente. Sono nata per via solitaria capemonte, fronne sfrunnata facevano rumore come spie, e ti tremava sta mano bella che m'accarezzava. Carmela, Carmela, che volessi fa, potevo te tornare da volta tu me. Amore amato per via solitaria capemonte, ci sono tornata ma pure pianta m'hanno letto in fronte, a me tra tutto caduto amore nostro è già fornuto. Amore amato per via solitaria capemonte, Carmela, Carmela, di che volessi fa, potevo di tornare da volta tu. Carmela, Carmela, di che volessi fa, potevo di tornare da volta tu. Tu me.